Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Segnali di ripresa dell'economia italiana. Secondo l'Istat, il più è tornato a maggio e giugno su produzione industriale e esportazioni. Scoperta una banda di trafficanti di uomini, 14 arresti, operazione coordinata dalla Procura di Palermo. Cesare Battisti dal carcere annuncia inizio lo sciopero della fame. Bielorussia arrestata al confine con l'Ucraina l'oppositrice Kolesnikova. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura parliamo dei dati Istat sull'economia, perché nella nota trimestrale dell'Istat si evidenzia ancora una volta la caduta del PIL nel secondo trimestre, ma si mettono in evidenza anche i segni più che sono tornati evidenti a maggio e a giugno su produzione industriale ed esportazioni. Per l'anno prossimo si prevede una crescita di oltre il 5%. Segnali estesi di ripresa nell'economia italiana secondo l'Istat, che sarebbero associati alla caduta del PIL italiano del secondo trimestre, emersi da maggio per la produzione industriale e da giugno per i nuovi ordinativi della manifattura per le esportazioni, che hanno riportato forti incrementi sia verso i mercati europei sia quelli extraeuropei, dati che, sottolinea l'Istituto, suggeriscono il proseguimento della fase di ripresa. Tuttavia il livello degli indici rimane inferiore a quello di gennaio, ma ci sono dei ma. Il commercio vede un calo di oltre il 7% su anno, a luglio del 2,2% su mese, giù le vendite al dettaglio, soprattutto per i piccoli negozi, in 7 mesi, calo dell'8,5%, balzo per quelle online del 28,5%, sulla ferramenta, impicchiata l'abbigliamento, ma anche la pellicceria, in crescita a 2 cifre l'elettronica. Non fa meglio però l'Europa a 19, il PIL va giù dell'11,8% nel secondo trimestre, ancora segnata, secondo l'Eurostat, da misure di contenimento legate al Covid-19. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi sono in corso le audizioni sul Recovery Fund, mentre nella maggioranza va avanti la discussione su come investire i fondi europei che arriveranno. Sentiamo. Il Recovery Fund deve partire il prima possibile, aiuterà i paesi a superare la crisi innescata dal coronavirus. A auspicarlo è il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Bruxelles, puntualizza, controllerà che le risorse siano spese dai paesi in linea con le raccomandazioni specifiche. Ogni euro, aggiunge il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, deve essere usato in modo efficace. Il debito generato dal Recovery Fund, spiega poi il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, sarà ripagato con le risorse dell'Unione. La deroga alle regole su aiuti di Stato e patto di stabilità non è eterna, avverte Gentiloni. Si tornerà alla normalità, ma, dice, bisogna decidere la tempistica per consentire alle economie di ripartire. A Roma intanto si lavora al piano di riforme da inviare a Bruxelles per il Recovery Fund. Domani è in programma a Palazzo Chigi la prima riunione del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei. L'obiettivo è tracciare un primo schema delle linee guida per il Recovery Plan che l'Italia, secondo il calendario previsto dalla Commissione europea, è tenuta a presentare formalmente da gennaio ad aprile 2021. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso la cronaca. Cesare Battisti ha annunciato lo sciopero della fame, l'ex membro dei proletari armati per il comunismo, condannato a 2 ergastoli per 4 omicidi alla fine degli anni 70, si trova nel carcere di Oristano, in isolamento, condizione che secondo il suo legale avrebbe dovuto decadere 6 mesi dopo il suo arresto. Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, scrive Battisti in una lettera inviata al proprio avvocato, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale. E adesso invece ci spostiamo in Sicilia, a Palermo, per un'operazione che in realtà ha un respiro internazionale. Sotto il coordinamento della Procura di Palermo sono stati eseguiti 14 arresti, persone accusate di far parte di una associazione a delinquere per il traffico di clandestini. Daniele Biacchessi. Non c'è solo la scoperta di una nuova associazione di trafficanti di esseri umani nell'operazione della squadra mobile della Procura di Palermo scattata in queste ore, c'è la conferma che le rotte dei criminali che trasportano migranti cambiano secondo le trasformazioni delle condizioni sociopolitiche del continente africano, dei paesi che si affacciano al Mediterraneo e dei buchi legislativi lasciati dai vari governi. In particolare l'organizzazione guidata dal latitante Germari Hermes ed è poi suddivisa in cellule dislocate in Centro Africa, Eritrea, Etiopia, Sudan, nei paesi del Maghreb come la Libia, in Italia, Nord Europa e perfino negli Stati Uniti. I profughi che si allontanano dai centri di accoglienza sono ospitati da questo gruppo criminale che fornisce loro vitto, alloggio, titoli di viaggio, falsi documenti, fino ad organizzare la loro partenza verso il centro e nord Italia, da dove poter raggiungere il Nord Europa e talvolta gli Stati Uniti. Per portare a casa un imponente risultato economico, l'organizzazione mette in campo attività di intermediazione finanziaria illegale, come il metodo Kawala, utilizzato principalmente per il pagamento dei viaggi dei migranti o come prezzo della loro liberazione dai centri lager in Libia, e che consente poi di trasferire denaro utilizzando una rete di intermediari operanti praticamente in tutto il mondo. Ancora la cronaca, orrore in una villa a Casale Monferrato in provincia di Alessandria. La polizia ha trovato il cadavere carbonizzato di un uomo di 61 anni che condivideva la casa con la moglie, da cui era però separato. L'uomo sarebbe stato ucciso dal figlio di 23 anni, arrestato ieri dalla polizia di Alessandria, che avrebbe confessato, avrebbe detto di aver dato la casa alle fiamme, per cancellare ogni traccia. Adesso all'estero, in Bielorussia, dopo 24 ore di giallo sulle sorti di Maria Kolesnikova, membro del comitato dell'opposizione Bielorussia, oggi è stata diffusa la notizia di una sua fuga verso la frontiera. La donna in realtà è stata arrestata. Sentiamo. Sarebbe stata arrestata al confine con l'Ucraina mentre cercava di fuggire l'oppositrice bielorussa Maria Kolesnikova. La donna, l'ultima rimasta in Bielorussia delle tre che hanno guidato il fronte contro Lukashenko, secondo molte testimonianze invece è stata portata via ieri mattina a Minsk da un comando di uomini incappucciati che l'avevano costretta a salire su un minibus. La dinamica è ancora poco chiara e la vicenda potrebbe essere semplicemente una messa in scena dei servizi speciali, come ha dichiarato una fonte vicina all'opposizione. La Kolesnikova sarebbe stata costretta ad espatriare, ma lei avrebbe strappato il passaporto. Il portavoce del comitato di frontiera bielorusso Bichovsky ha dichiarato che non ci sono minacce alla salute della Kolesnikova e che la donna sta bene. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la presa di posizione della Germania sul caso Navalny, ora anche l'ONU chiede un'inchiesta approfondita di Mosca sul crimine commesso contro l'oppositore Alexei Navalny. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha infatti esortato oggi la Russia a svolgere o a cooperare con una indagine completa, trasparente, indipendente e imparziale. E riprendono oggi i negoziati per la Brexit. Sentiamo. Il futuro delle relazioni commerciali tra l'Unione Europea ed il Regno Unito si gioca oggi a Londra nel duro faccia a faccia tra il capo negoziatore europeo per la Brexit Michel Barnier e la controparte britannica David Frost. Un ottavo round di difficili negoziazioni che il primo ministro Boris Johnson gioca in casa minacciando la UE di essere pronto a mollare il blocco al termine del periodo di transizione se non si arriverà ad un accordo sul libero mercato nelle prossime 5 settimane. Il governo Johnson è pronto a modificare unilateralmente l'accordo di divorzio già siglato a fatica con la UE lo scorso anno. Mercoledì Downing Street varerà infatti una nuova legge interna per cambiare il protocollo sui sussidi statali alle imprese e le tariffe doganali in Irlanda del Nord. La legge riguarderà solo precisazioni tecniche, si è difeso Johnson per mantenere aperto il dialogo con Bruxelles, ma secca è la controminaccia di Barnier. Perché si possa procedere con fiducia verso un accordo commerciale a fine anno, occorre che venga rispettato tutto ciò che è stato firmato. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E siamo allo sport, il calcio, una prova convincente ieri per la nazionale di Mancini, macchiata però dal grave infortunio di Zaniolo. Ci racconta tutto Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Sì, ciao. Infortunio che è nel peggiore possibile, ma del resto lo si era già capito ieri sera ad Amsterdam. Ma questa mattina presto Zaniolo si è presentato a Villa Stewart a Roma per gli esami diagnostici. Ebbene, il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Già domani mattina verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Sempre a Villa Stewart, per lui si prevedono 6 mesi di assenza dai campi di calcio, un calvario che Zaniolo ha già vissuto dal 12 gennaio scorso, quando si era rotto il legamento crociato anteriore dell'altro ginocchio, fortunatamente il ginocchio destro, ed era poi rientrato a luglio. Questa la cattiva notizia. La bella è stata la vittoria dell'Italia ad Amsterdam 1-0 contro l'Olanda, una vittoria convincente. Italia che ora è prima nel suo girone di Nations League. L'appuntamento è a ottobre, quando gli azzurri, dopo un amichevole con la Moldovia, giocheranno prima in Polonia e poi la gara di ritorno in casa, questa volta contro l'Olanda, e potrebbero avvicinarsi alla Final Four. Grazie Giovanni Capuano, l'appuntamento col pomeriggio sportivo naturalmente dopo effetto giorno, dopo il GR delle 14. Adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, gli approfondimenti, e ricominceremo dal piano segreto per la gestione dell'epidemia. Il governo lo ha appena reso pubblico, lo commenteremo con il sottosegretario alla salute Sandra Zampa. Prima di chiudere però, collegamento con la mostra del cinema di Venezia, dove c'è la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta, ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno Alessio. Allora, uscita in questo momento dalla proiezione del terzo dei 4 film italiani in concorso, che è Notturno di Gianfranco Rosi, girato in Medio Oriente. Gianfranco Rosi, già Leone d'Oro con Sacro Grappa e Orso d'Oro a Berlino, e candidato all'Oscar con Fuoco a Mare. Alle 19.15 ci sarà in sala la proiezione ufficiale in sala grande. Sta anche Amos Gitai con Laila in Haifa, girato con un cast corale di attori italiani e palestinesi, e di 5 donne invece in serata, la regista di Monti e il Leone d'Oro alla Riviera. No, c'è un problema con la linea con Venezia, e quindi interrompiamo il collegamento con Marta Cagnola. Ci fermiamo qua, piccola pausa, torniamo tra poco. Come detto, ripartiamo dal piano cosiddetto segreto per la gestione dell'epidemia, reso noto solo nelle ultime ore dal governo dopo diverse pressioni. Ci sono diverse domande da fare, risponderà il sottosegretario Sandra Zampa. A tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi, segnali di ripresa dell'economia italiana nel secondo trimestre, secondo l'Istat, bene produzione industriale ed export. Fitch però abbassa la stima per l'anno in corso. Scoperta una banda di trafficanti di uomini, 14 arresti in una operazione coordinata dalla Procura di Palermo. Bielorussia arrestata al confine con l'Ucraina l'oppositrice Kolesnikova. Covid, ecco il piano segreto per la gestione della pandemia, il governo lo ha appena reso pubblico, ne parliamo tra poco. Sono le 13:15, come annunciato è con noi la sottosegretario alla salute Sandra Zampa, benvenuta, buongiorno. Grazie e buongiorno. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito, Zampa, per parlare con lei di questo che è l'apertura di molti giornali di oggi, questo piano cosiddetto segreto per la gestione della pandemia. Ci sono diverse domande a cui rispondere, perché insomma, sono documenti che sono emersi dopo che la stampa ha chiesto, i giornali hanno chiesto, i giornalisti hanno chiesto che venissero in qualche modo desecretati i verbali del CTS. Io faccio solo una piccola spiegazione di cosa stiamo parlando, poi le do subito la parola a Zampa. Sì, il 21 febbraio, una piccola cronistoria velocissima, il comitato tecnico scientifico riceve un matematico dell'istituto Kessler di Trento che presenta uno studio, si chiama Scenari di diffusione del Covid-2019 in Italia, impatto sul sistema sanitario nazionale, un documento di alcune pagine con dei grafici che mostrano chiaramente come il virus avrebbe potuto, siamo al 12 febbraio, contagiare 2 milioni di persone e ucciderne 70.000. Pochi giorni più tardi, il 19 febbraio, viene redatto un piano sanitario nazionale per la risposta a un'eventuale pandemia di Covid. Pochi giorni dopo, è storia che tutti conoscono, c'è il cosiddetto paziente 1 ricoverato a Codogno e scopriamo che il virus si trova in Italia. Dicevamo che siamo arrivati a ritroso a conoscere questo documento perché alcuni giornali hanno fatto una campagna per ottenere queste informazioni. La domanda, Zampa, di fondo, la prima domanda che le faccio è questa: se esistevano questi scenari, perché il governo non li ha comunicati e se ne è tenuto poi debitamente in conto nella gestione, nelle fasi iniziali della pandemia, di questi gravi scenari? Dunque, lei in realtà, pur nella correttezza dell'informazione complessiva, si confondono due questioni. Uno sono i verbali del CTS, di cui è stata chiesta la pubblicazione, l'altro è la questione del piano, che poi i piani cosiddetti non esistono secretati, un piano o è secretato o non è secretato. Questo piano non è mai stato secretato. Mi ha stupito vederlo ritornare, lo dico giusto per chiarezza e anche perché, diciamo, sono così di carattere, mi piace essere molto chiara nelle cose. Allora, mi ha stupito il ritorno della polemica e anche così, diciamo, dell'attenzione spasmodica per una ragione. In realtà io voglio ricordare che il ministro Speranza ha risposto riguardo a questa questione del piano al Copasir 2 mesi e mezzo fa, forse anche 3 mesi fa. Gli atti sono pubblici, nel senso che si può consultare il giorno in cui il ministro Speranza si è recato al Copasir su richiesta. In quell'occasione, scusi Zampa, Speranza aveva ammesso l'esistenza di questo scenario di cui si allora, parla? Allora, certamente questo piano esiste, ma non è un piano del governo, è uno studio al quale poi si sono anche accompagnati i piani. Questo studio aveva cose molto, diciamo, corrette, ma aveva anche previsioni del tutto sbagliate. Le faccio un esempio. Sì. Quello studio prevedeva che l'Italia potesse arrivare a 1.000 contagi in un tempo molto lungo. In realtà questo tempo si è rivelato brevissimo, molto ma molto più breve di quello che lo studio, tant'è vero che poi uno dopo l'altro sono state prese tutte le decisioni sempre più dure riguardo alle chiusure. Perché in poco tempo noi siamo arrivati ben oltre 1.000 contagi. Per dirle che si trattava di uno studio che funzionava così: erano stati presi i dati della Cina, certo, e era stata fatta una proiezione sullo scenario. Era una proiezione in base a quello che si sapeva allora, cioè sostanzialmente solo quello che era accaduto in Cina. Anche chi ha fatto quello studio non conosceva esattamente tanto quanto tutti gli altri, sia il Comitato Tecnico Scientifico che chi sta nelle istituzioni e prende le decisioni politiche. Nessuno in realtà conosceva esattamente con quale fenomeno avessimo a che fare. L'altra cosa sono invece i verbali del CTS, perché il CTS aveva richiesto che i loro verbali restassero, diciamo, riservati, ma non c'è mai stata nessuna secretazione, né nessuna richiesta del governo di secretare né lo studio, il piano, come il ministro Speranza ha certamente, anche se, come noto, ciò che si dice al Copasir resta dentro al Copasir. Però assolutamente al Copasir ci stanno parlamentari di tutti i colori, diciamo, politici, non di tutti i colori in modo folcloristico, diciamo, politici. Quindi, benissimo, senta, chiarito l'aspetto, Zampa, chiarito l'aspetto sulla, diciamo, presunta segretezza o meno di questo, dei verbali e soprattutto del documento, che lei dice appunto segreto non era, era un documento che era circolato, conteneva delle previsioni, alcune lei dice sbagliate, altre contenevano degli allarmi importanti. La domanda che molti sono fatti è questa: però perché, se esisteva un piano di questo genere, dove si diceva molto chiaramente che era necessario dotarsi del maggior numero di dispositivi di protezione, mascherine, camici, posti in terapia intensiva, eccetera, eccetera, per esempio, ciò nonostante, dei giorni dopo l'Italia ha comunque donato alla Cina la famosa aiuti per 18 tonnellate. Non sarebbe dovuto pensare di tenerli in Italia? Noi abbiamo avuto dalla Cina molto più di 18 tonnellate. in quel momento la Cina era in una situazione drammatica, estrema, e noi non avevamo nulla se non i due cinesi. È difficile, vede, l'errore che non bisogna compiere è leggere i fatti di ieri con ciò che sappiamo oggi e con ciò che abbiamo vissuto. Il governo tuttavia prese la decisione di lavorare a un piano, tant'è vero che si cominciò a implementare le terapie intensive, si cominciò a cercare di capire dove bisognava immediatamente mettere le mani. Io credo che quello che poi, le decisioni che poi sono state prese, abbiano dimostrato che quel lavoro è stato un lavoro fatto bene, nel senso che la decisione che venne contestata da tutti, delle chiusure molto drastiche che vennero fatte, si sono rivelate essenziali, per esempio per mettere in sicurezza il Sud, perché con gli studi, non solo quello, ma quello tra tanti altri studi, ci diceva che le terapie intensive, soprattutto al Sud Italia, sì, erano assolutamente insufficienti, che quindi l'impatto del Covid, nella misura in cui nessuno poteva, diciamo, esattamente immaginare come fosse, ma l'abbiamo cominciato a vedere subito, no? Perché, come le ho detto, sì, quello studio diceva si arriverà a 1000 dopo, invece ci siamo arrivati a una velocità supersonica. Questa è una delle ragioni per cui, secondo me, il governo, in particolare devo dire il ministro, ha fatto un lavoro eccellente, perché ha avuto il coraggio di prendere decisioni molto dure, molto molto dure, perché oggi stiamo facendo i conti anche con la durezza di quelle decisioni sul piano economico finanziario, ma mettendo però in salvo il paese. Senta, un'ultima cosa che riguarda ancora questa questione di quel piano del 20 febbraio. Questa diciamo, è una critica che arriva per esempio dal leader della Lega Matteo Salvini, siamo anche in campagna elettorale, tutto quello che vuole, però è una critica diciamo sempre all'operato del governo, che ritorna su quella questione delle responsabilità tra governo e regioni, riguarda la Lombardia, perché in presenza di uno scenario così allarmante, quando poi si è capito che il focolaio principale era in Lombardia, siamo sempre alla fine di febbraio, questo piano non è stato comunicato, non è stato, la regione Lombardia non è stata messa a conoscenza di questo. Ma Dio, veramente la regione Lombardia aveva proprio dentro casa, cioè in Lombardia, la persona che aveva commissionato quello studio. E oggi so che ho letto una sua intervista sul Corriere della Sera, mi sembra. Lei si riferisce a Alberto Zoli? Spieghiamo quindi, chi è, perché secondo lei avrebbe, diciamo, avvertito la regione. Ma comunque tutti hanno sempre saputo tutto, anche perché la giornata funzionava così, avendole vissute praticamente tutte. Sì. La mattina o il pomeriggio c'era un incontro del ministro Boccia con tutte le regioni in collegamento, e nell'altra parte della giornata si riuniva il CTS. Poi è subentrato il commissario Arcuri per il piano, invece è molto intenso, di acquisizione di materiale che era indispensabile, che ha cominciato ad arrivare, comprese le mascherine. Ma tutte le scoperte, non è che scoprire che un paese non produce per esempio le mascherine, non produce le terapie intensive, non è che lei in 3 ore dopo averlo saputo ha rimediato. Oggi abbiamo rimediato, nel senso che tutto viene prodotto a casa nostra. Quindi criticare è uno sport, abbastanza facile. In quei giorni, in quelle ore, io credo che pur certamente in manchevolezze, sì, che possono essere rilevate, si sia fatto, quindi, un lavoro molto buono. Per quanto riguarda il discorso delle regioni, le dice è escluso che la regione Lombardia potesse non conoscere questo rapporto, cioè per come erano i rapporti in quel momento lì, sicuramente ne erano a conoscenza. Questo è quello che lei sta dicendo adesso, che c'era uno studio che secondo me era normale che loro conoscessero. È stato commissionato da una persona che appunto dal dottor Zoli, sì, che diciamo è un esponente di primo piano della sanità lombarda, il quale però dice che lui nella veste CTS, tenendo conto della necessario riservo, non andava poi a riferire alle regioni quello che veniva detto. Comunque è stato uno studio di cui si è parlato dentro al CTS e di cui mi sembrerebbe abbastanza singolare, ma è uno dei tanti studi, che poi la Lombardia conoscesse o non conoscesse quello studio, sinceramente non mi sembra di rimenta, ecco, capisco che la campagna elettorale ti porta. Non lo so, se la Lombardia dice che non lo conosce, mi stupisce che non lo conoscesse, ma è uno degli studi di cui il CTS si è avvalso. E dentro il CTS hanno circolato anche oggi, anche in queste ore, sì, circolano. Va bene, questo poi diciamo è cronaca più recente. Un'ultima cosa, Zampa, glielo voglio chiedere, riguarda invece diciamo più l'attualità, la scuola, mancano pochi giorni, secondo lei è già stato fatto tutto il necessario dal punto di vista delle condizioni di sicurezza sanitaria? Guardi, io credo che sia stato fatto tutto quello che si poteva fare, in arrivo anche un decalogo, lo stiamo facendo anche tradurre in varie lingue in modo che possa arrivare a tutti, soprattutto ai genitori, agli insegnanti, ai ragazzi. Occorre la collaborazione di tutti perché le cose funzionino. Io credo che si sia fatto il massimo possibile, è tutto il necessario, io spero di sì, naturalmente tutto si corregge anche se necessario. Mi pare però che sia stato davvero avviato un piano straordinario. Sappiamo che è una sfida molto difficile. Grazie Zampa, grazie al sottosegretario alla salute per essere stato con noi. Chiudiamo questa pagina parlando velocemente ancora di scuola, perché meno dell'1% del personale docente si è effettivamente entrato in contatto con il virus dopo aver fatto i test sierologici famosi. Sono i primi dati che sono a disposizione, in realtà sono stati anticipati oggi dalla Repubblica. Si dice che un docente su quattro solamente ha aderito a questo monitoraggio. Sentiamo allora Rosanna Magnano. La riapertura della scuola si preannuncia come un percorso a ostacoli, tra test sierologici a singhiozzo effettuati solo da un docente su quattro, banchi monoposto a rallenti, ne arriverà un terzo entro fine settembre, e docenti che mancano all'appello, soprattutto nel nord Italia, con 60.000 cattedre non assegnate delle 84.000 assunzioni promesse ad agosto per affrontare l'emergenza Covid. E non è servito quasi a nulla lo strumento della call veloce, che avrebbe dovuto consentire la copertura dei posti vacanti in tempi più brevi. E si parla ormai di flop anche per i test sierologici al personale scolastico, test reso obbligatorio solo dalla campagna, che però inizierà l'anno scolastico il 24 settembre. L'obiettivo fissato dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri sarebbe stato di 2 milioni di test, ma dai dati di una decina di regioni emerge che solo un docente su quattro ha effettuato lo screening, un ritardo motivato in parte da una non corale adesione del personale scolastico e in parte dalla difficoltà di accesso al test, che non tutti i medici di famiglia hanno accettato di somministrare nei propri studi. Dai risultati elaborati finora emergono valori di positività tra lo 0,5 e l'1,2% sul totale, ma la maggior parte degli insegnanti tornerà a fare lezione senza test. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:28, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco dopo le informazioni di borsa. Ripartiremo da quello che è accaduto la notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, quando Willy Monteiro è stato ucciso dopo un'aggressione. Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Ne parleremo con il sindaco di Colleferro tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Secondo trimestre negativo a meno 10% secondo l'Istat, ma a maggio e giugno il segno più è tornato su produzione industriale e esportazioni, mentre Fitch rivede al ribasso le previsioni per il PIL di quest'anno. Scoperta una banda di trafficanti di uomini in una operazione internazionale, 14 arresti, operazione coordinata dalla Procura di Palermo. Cesare Battisti dal carcere annuncia inizio lo sciopero della fame. Bielorussia arrestata al confine con l'Ucraina, l'oppositrice Kolesnikova. Cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, come anticipato, è con noi il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. Benvenuto. Benvenuto, grazie. Grazie a voi. Grazie a lei per aver accettato l'invito, Sanna. Allora, ricordiamo quello che è accaduto la notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. un ragazzo di 21 anni, Willy Montero Duarte, morto poi durante il trasferimento in ospedale a seguito di una violenta rissa nella quale ha subito un pestaggio ad opera di almeno 4 persone, ragazzi tra 22 e 26 anni, residenti ad Artena, che sono stati poi fermati e arrestati dai carabinieri. Avevano cercato anche di scappare. Si tratta dei fratelli Bianchi e di Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Sembra che tutti avessero precedenti penali, in particolare i due fratelli Bianchi, è stato detto in queste ore, erano due abituali persone che abitualmente facevano ricorso alla violenza, sarebbero stati dei picchiatori. Sono accusati di omicidio pretere intenzionale, però in questo momento la procura sta valutando se inserire un'aggravante, quella del razzismo. Senta, le voglio chiedere intanto questo, anche se queste due persone in particolare, queste 4 persone non risiedevano nel suo comune, però il fatto è avvenuto lì e si dice che queste persone fossero abitualmente in giro a compiere atti anche simili a quello che è accaduto a Willy. È vero che erano persone abitualmente violente, erano persone note? Innanzitutto la ringrazio per il quadro che ha delineato, perché è un quadro che è veritiero. In mezzo a tante stupidaggini che ascoltiamo in questi giorni dai media, lei ha ricostruito la realtà dei fatti. Questo nello specifico è vero per metà, perché questi personaggi si sentiva che erano, diciamo così, dei poco di buono, dei delinquenti, ma a Colleferro non si erano mai visti. Insomma, io almeno che frequento questa zona, il comune a due passi dal quartiere che frequenta di giovani, non l'avevo mai visti. Ho preso i loro nomi dai giornali e ho visto le loro immagini sui giornali, e poi scambiando un po' di informazioni con le forze dell'ordine ho capito e inquadrato di chi si trattasse, insomma. Quindi lei non li conosceva e nel suo comune non erano diciamo noti, almeno a quanto risulta a lei. No, sì, è così. Senta, invece, allargando un po' il ragionamento, sembra nelle ultime ore abbiamo letto che la procura starebbe valutando l'ipotesi di inserire l'aggravante razziale per questo pestaggio, cioè il fatto che Willy fosse di colore avrebbe in qualche modo li avrebbe indotti a essere ancora più violenti. Lei ritrova questa possibilità, come dire, nei comportamenti, se non dei suoi concittadini? Artena comunque è una cittadina che è a fianco di Colleferro, sono due città, Colleferro è un po' più grande, Artena è un po' più piccola, ma stiamo parlando della stessa zona. Assolutamente, noi siamo un territorio contiguo, le brave persone, le cattive persone sono in ogni paese. Siamo di fatto molto lontani, la nostra comunità è molto lontana da ogni forma di razzismo, perché qui non si sono mai consumati fenomeni di questo tipo. Però dalle informazioni che ho raccolto ci potrebbe essere in questo caso anche questo, perché da quanto ho capito, da quello che mi hanno raccontato un po' di ragazzi, si sono accaniti su di lui con particolare violenza, e poi la mattina ci deve essere stato un alterco fra una parte dei genitori degli assassini, una parte dei genitori dei testimoni, nel cui casino, nel cui dibattito sarebbe volata questa frase, dice: vabbè, ma tanto hanno ucciso un extracomunitario. Questa è una cosa gravissima che io condanno con la massima fermezza. Noi siamo una città che è nata 85 anni fa dall'unione di esperienze provenienti da ogni regione d'Italia. L'apertura della fabbrica qui negli anni 30 fece arrivare persone nuove da ogni luogo d'Italia e d'Europa. Noi non siamo mai stati una città razzista, siamo sempre stati una città accogliente, una città del lavoro, una città operaia che è lontana anni luce da queste forme, e quanto accaduto ci sconvolge profondamente. Però c'è, sindaco, sicuramente c'è molta rabbia a Colleferro, perché come è accaduto tante altre volte, troppe volte sicuramente nel nostro paese, anche se forse è troppo facile dirlo adesso, però il fatto che si poteva in qualche modo evitare, avevano precedenti penali, erano conosciuti, si sarebbe potuto fermarli. Quando sono stati arrestati di fronte alla caserma c'è stata una piccola folla che ha inveito anche contro le forze dell'ordine perché non erano intervenute prima. No, quell'episodio non è proprio così. Quell'episodio è avvenuto la sera che li hanno portati via, cioè quando sono usciti dalla caserma per andare in carcere. La folla l'ha insultati e ha insultato anche i carabinieri, che insomma non credo che si meritino l'insulto, perché i carabinieri sono riusciti ad arrestarli nonostante si fossero dati alla fuga, e mentre venivano portati via dalla caserma per andare in carcere, la folla si è aggredita all'uscita. Si è capito che quelle automobili dei carabinieri trasportavano i quattro, e c'è stato un momento di grande tensione mezz'ora prima che io deponessi il mazzo di fiori nel luogo dove è stato ucciso. Quindi mi conferma che c'è comunque questa, tra gli amici, i familiari di Willy, gli amici, molti hanno detto si poteva fare qualcosa, si poteva evitare. Insomma, è un discorso che tante volte, troppe volte forse facciamo, magari anche superficialmente, perché forse non si poteva, è brutto dirlo, ma forse non si poteva neanche evitare. Avevano però dei precedenti. Secondo lei, c'è in questa situazione che lei immagino stia conoscendo sempre di più, c'era qualcosa che si sarebbe potuto fare? Guardi, la certezza della pena e del processo sono argomenti che difficilmente può affrontare un sindaco che ha a disposizione una manciata di vigili urbani. Sono questioni che attengono alla procura, sono questioni che attengono alle forze dell'ordine. Io dico che un episodio come quello è totalmente folle, è atroce e folle, e non bisogna cercare giustificazioni, perché non se ne troverebbero di giustificazioni adatte. È sbagliato anche collegarlo al tema della movida, perché la movida c'è in tante città, in quei posti tanti ragazzi come Willy, ma anche come me, io sono un coetaneo sia degli assassini che della vittima, si può dire, vanno per trascorrere un'ora di spensieratezza. Sicuramente la movida crea problemi magari di chi butta il bicchiere per terra, di chi si ubriaca, si mette a cantare e sveglia chi dorme, ma non significa che la movida possa giustificare un evento così cruento, un evento così drammatico. Io credo che sia sbagliato cercare capri espiatori e giustificazioni. Una cosa del genere è incredibile solo a dirsi. Il fatto che si siano accaniti così tanto, il fatto che l'abbiano finito con le mani nude a colpi di arti marziali, è una roba che non ha giustificazione in nessun caso. Non si riesce a raccontare, noi siamo turbati. Noi non siamo abituati a queste cose. Nella mia città queste cose non sono mai successe dalla fondazione a oggi. Figuriamoci se una roba del genere possa trovare una giustificazione. Capisco il momento di rabbia dei cittadini, lo capisco perfettamente. Come non averlo? Siamo tutti terribilmente scossi. Grazie al sindaco Pierluigi Sanna, al sindaco di Colleferro. Grazie per essere stato con noi. Abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questa parte. Voglio farvi conoscere un giovane medico specializzando che ha la particolarità, si chiama Federico Emanuele Pozzi. Buongiorno intanto. Buongiorno. Benvenuto Federico. Ha la particolarità di essere uno dei volontari per i test sul vaccino in Italia. Federico, tu non hai ancora ricevuto il vaccino, giusto? Però ti sei offerto. Sì, esatto, ho solamente risposto per essere iscritto nel registro dei volontari del vaccino che verrà sviluppato dall'Università di Bicocca. Okay. Però dovrebbe partire ad ottobre la sperimentazione. Che possibilità ci sono che tu venga effettivamente chiamato? 8%, perché sono 80 che hanno bisogno e 1000 quelli che hanno risposto. Quindi c'è addirittura più disponibilità che non poi la necessità reale. Siamo in una fase, che fase è di questo vaccino? Fase 1, 2, 3? Sostanzialmente la parte in vitro è stata fatta, sì. Quindi adesso si parte con quella sull'uomo, in cui bisognerà prima trovare la dose effettiva e poi valutare se gli anticorpi sviluppati con questo vaccino saranno appunto immunizzanti o meno. Quindi siamo ancora prima della fase 3, che è quella in cui invece, testato che il vaccino non fa male, cerca di capire se fa bene su larga scala e se serve proprio a prevenire la malattia del coronavirus. Hai qualche timore, hai avuto qualche ripensamento? Perché hai scelto di fare questa cosa? Ma principalmente per una questione di senso di responsabilità, che credo sia anche quello che ha portato tante altre persone a candidarsi. Mm-hmm. Non ho una storia particolare alle spalle con il coronavirus. Però sei un medico, sei uno specialista, sì. Quindi in qualche modo, anche se so che non hai vissuto la fase del coronavirus, perché eri in un reparto particolare che non era toccato dalla... Esatto, laureato in neurologia, quindi noi non eravamo risparmiati proprio perché ci sono delle urgenze come gli ictus che hanno continuato ad esserci anche durante il Covid, per cui i neurologi non sono stati reindirizzati. Senso di responsabilità. Ti voglio chiedere un'ultima cosa, Federico, poi magari ci risentiremo più avanti se sarai scelto e vedremo come andrà anche un po' la tua storia. Qualche giorno fa c'è stata, sabato anche in Italia, una manifestazione di Novax, ma insomma di un popolo misto di persone che, diciamo, accumulati dal fatto di prendersela contro quella che viene definita la dittatura sanitaria, no? Cosa ne pensi di questo, di queste persone che hanno manifestato? Credo che adesso che ciò che li accomuna sia il fatto di essere degli incoscienti più che altro, anche perché, se non sbaglio, proprio durante la stessa manifestazione qualcuno si è sentito male e hanno chiesto l'aiuto di un medico, quindi è paradossale, cioè, nel senso, è allucinante. Proprio per questo serve un vaccino, credo, proprio perché se si aspetta che le persone si attengano a dei comportamenti consoni, si trova poi davanti a questi soggetti che invece... Ma tu hai una fiducia, diciamo, incrollabile, oppure anche tu avrai qualche dubbio, qualche timore, qualche paura, però ciò nonostante ti sei comunque deciso a fare questo passo. Hai ogni tanto dei momenti in cui pensi, discuti con i tuoi amici e ascolti anche le argomentazioni di chi ha delle paure, per esempio sui vaccini, o invece preferisci non discutere? Che i vaccini sono tra i farmaci più sperimentati e più utilizzati su larga scala, per cui anche nella fase 4, quella post-marketing, i vaccini fondamentalmente sono tra i farmaci più studiati, per cui avere dubbi sui vaccini per via di bufale come quella dell'autismo oppure di altre cose che vengono messe in giro come quella sul mercurio, che tra l'altro non è vera nemmeno quella, è semplicemente folle, cioè vuol dire non avere alcuna idea su come funziona proprio la la ricerca in ambito farmaceutico e poi anche tutta quanta la fase dopo. Grazie Federico Pozzi, ci risentiremo magari davvero più avanti se sarai selezionato nel gruppo che riceverà il vaccino, il test sul vaccino. Ci fermiamo. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.